la gente come noi. Tu che sei già uomo saprai però che non c'è ragione di dir così. Forse ancora tu non hai capito che io cerco in me la verità. Tu vivi pure nel tuo vecchio mondo fatto di male, tutto ipocrisia. Se vuoi crescere un figlio senza fantasia, ebbene fallo, io cambio via.